una storia se ne va, mentre già le altre complottano. Conterà, Dio lo sa se conterà, un'ora in più o un giorno in più, un anno in più per riconoscerle. Lascia che tutto sia così, lascia che adesso tutto rimanga qui. No, non le disperdere, non lasciarle andare via. Tutto qui, contro luce rivedrai tutto il via vai che ti girà in. Passerà come un fiume, passerà un'ora in più, un giorno in più, un anno in più per riconoscerti. Lascia che tutto sia così, lascia che adesso tutto si fermi qui.